cartellone di Elisabetta Fiorito. Harold Pinter, the Nobel Prize winning British playwright, screenwriter, poet, actor, political activist, died last week at the age of 78 after a prolonged battle with cancer. He's considered one of the most influential and provocative dramatists of his generation, often compared to his friend and mentor Samuel Beckett. Pinter's well-known plays include The Birthday Party, The Caretaker, The Homecoming and Betrayal. E qui sentiamo l'annuncio del 24 dicembre 2008, quando Harold Pinter, uno dei maggiori drammaturghi inglesi, morì a Londra, dove era nato nel 1930. Ma Pinter è anche sopravvissuto, ovviamente, come tutti i drammaturghi, alla sua morte, ed è sopravvissuto soprattutto al Festival Pinter che si sta svolgendo in questi giorni a Milano. Buongiorno quindi, benvenuti e bentornati a Cartellone. E a Milano in scena questa sera e domani pomeriggio c'è Anna Galiena con L'amante. Buongiorno Anna Galiena. Buongiorno. Anna Galiena, una delle maggiori attrici italiane, che è in scena con L'amante, e io subito le chiedo: chi è l'amante? E questo non si dice, intanto non si deve dire mai, e poi soprattutto in questa commedia non si può dire. Quindi è una commedia, quanti personaggi? Tre. Tre personaggi, lei chi interpreta? Due, Anna Galiena? In realtà, però anche tre, però non posso dire molto di più. Io sono, diciamo, la donna, poi c'è l'uomo, e poi c'è una presenza. E poi ci sono, certo che la storia, se devo raccontare la storia dell'amante, meglio di no, perché ci sono sorprese in atto. Quello che è interessante nell'amante sono i rapporti in questa coppia, il tipo di rapporto che loro hanno. Per esempio in Tradimenti, no, Pinter fa sempre questi triangoli tra i due amici, sì, sì, sì. e la donna che sta in mezzo. Esatto. E qui anche c'è un altro triangolo, è questo che ci sta dicendo? No, non lo sto dicendo, è quello proprio che non vorrei dire. È un triangolo misterioso. Ecco, perché l'amante è un grande punto interrogativo. Però, ecco, perché non vorrei dirlo prima, hai capito? E certo, poi del resto abbiamo sentito, come diceva anche l'annunciatrice, che Pinter è stato uno dei maggiori autori del teatro dell'assurdo e che il suo rivale era Samuel Beckett. Beh, erano anche amici, credo, più che amici e nemici. Sì, ma quando è uscita questa, quando hanno rappresentato questo amante per la prima volta, ha scandalizzato, non poco, perché anche ha messo il dito sulla piaga, su un certo modo di vivere, affetti e sesso, diciamo nell'ambiente inglese, ma in realtà poi avviene dappertutto, perché poi il vero problema è accettarsi come si è e vivere in maniera intera, anziché vivere a pezzetti, parzialmente e in compartimenti stagni, ecco. Gianfranco Capitta, critico teatrale, autore, con Roberto Canziani, del volume Harold Pinter, Scena e Potere, Garzanti Editore. Chi è Harold Pinter? Come lo possiamo ricordare? Una frase che ricorda questo grande drammaturgo? Beh, secondo me è il più grande, intanto, insomma, della fine del Novecento, non solo inglese, insomma. È quello che ha cambiato un po' il teatro di tutti, perché ha cambiato il modo di parlare in scena, incentrando sulla parola. Ed è, beh, uno misterioso, allargherei appunto quello che diceva Anna Galiena, che è moglie amante, questo lo possiamo dire, nel suo spettacolo, nel testo di Pinter. Beh, insomma, ha scoperto, usando un linguaggio molto elementare, molto quotidiano, quello che tutti usiamo, sono parole semplici, però costruite in un modo che scoprono che ognuno di noi vive dentro un mistero, che sono un mistero i rapporti con l'altro. E questo vale fra due persone, come appunto in una coppia, in una famiglia, in un caseggiato. Questo era il primo teatro di Pinter. Poi mano a mano Pinter ha allargato il discorso, come messo a fuoco meglio quello che ci aveva intorno, e questo riguarda la conflittualità non solo degli esseri umani, ma anche dei gruppi sociali, anche dei paesi, delle nazioni, del mondo. Quindi è proprio in questo credo che sia la sua genialità, quello che ha saputo guardare come in un cannocchiale dall'uscio di casa a una realtà che coinvolge tutti gli esseri umani, e scoprendone il mistero, scoprendone appunto il fatto che i rapporti non sono mai come sembrano, c'è sempre qualcosa d'altro, qualcosa sotto e qualcosa di più, nel bene e spesso nel male. C'è anche un gioco nel tempo, per esempio in Tradimenti si inizia dall'ultima scena, no? Quindi c'è tutto un tempo al contrario. Ivana Monti, il Calapranzi è in scena sempre al Teatro Franco Parenti di Milano dal 20 ottobre al 1 novembre. Lei che cosa fa? Io faccio al femminile la parte di Gus, diciamo così per non svelare troppo, la probabile vittima. La sensibilità del personaggio nell'accorgersi, ma solo sensibilmente, di strane cose, di colori che assomigliano alla minaccia, hanno fatto sì che Lorenzo Costa, un collega del teatro e direttore del teatro Garage di Genova, mi domandasse di farlo al femminile, riconoscendo nel personaggio una mentalità, una psicologia femminile. Io sono stata prima dubbiosa, ho chiesto di rileggerlo più volte e poi felice del risultato, perché effettivamente è una parte che può essere calzata da una donna, e addirittura ho pensato che vi fosse qualche frullo di pensiero in questo, di pensiero femminile anche nello stesso Pinter, per i rimandi di donne di cui si parla nella piccola tragedia, nel piccolo thriller. Quindi un thriller del 1957 ancora attuale? Beh, da un punto di vista sì, di minaccia è attualissimo. Io l'ho interpretato con quelli che sono i miei caratteri, diciamo così, regionali, cioè io sono milanese, mi sono ispirata ai nonsense che ci sono, forti di comicità delle ripetizioni fra i due personaggi. Si parlava prima di Beckett, un pochino becchettiani, ma che somigliano tanto anche a Cocchi e Renato e soprattutto alla strusa poesia di Iannacci, e c'è molto da sorridere, ma questo amaro e questo continuo senso di minaccia che sfoga poi alla fine. Volevo aggiungere un pensiero sul linguaggio di Pinter. Per me è stata una folgorazione, io ho già recitato Tradimenti e Ritorno a casa. La folgorazione è che Pinter usa, è vero, il linguaggio quotidiano di tutti noi, ma interpreta il nostro modo di volere essere sopra, così la stessa cosa per Gus, di non sopportare il silenzio e quindi di parlare e di farsi vedere sempre perfetti, capaci, alla page, sempre spiritosi, eccetera, mentre è proprio l'eccesso di spirito che si usa quello che denuncia il non essere a proprio agio. Il malessere, ecco, io la interrompo perché il nostro tempo a disposizione è finito. Volevo solo chiudere con Anna Galiena, con L'amante, ricordiamo che è scena questa sera al Teatro Franco Parenti di Milano. Con Roberto Trefirò, la regia di Andrea Rupchamma. È una frase dell'amante che l'ha colpita, un verso. È la mia prima battuta. Vale a dire? Mm-hmm. Mi sembra eloquente. Allora ricordiamo, Festival Pinter, Anna Galiena, la ringraziamo, con L'amante questa sera e domani pomeriggio alle 4:30. Poi ringraziamo Ivana Monti, altra grandissima attrice, il Calapranzi dal 20 ottobre al 1 novembre, e poi Gianfranco Capitta, e per chi volesse saperne di più consigliamo Harold Pinter, Scena e Potere, Garzanti Editore. Allora tutti al Teatro Franco Parenti. Cartellone. La lettera d'amore che in me ho scritto e corretto 100 volte fin quando tutto fosse perfetto, e che mettendo l'anima e il foglio insieme accanto basterebbe in un attimo ricopiarla soltanto. Sono nelle vostre mani, il foglio è la mia voce, l'inchiostro è il mio sangue, la lettera è la voce. La voce di Cyrano de Bergerac. Il suo aspetto era un aspetto particolare, con un naso particolare che non si poteva nominare, ma la sua voce incantava tutte le donne. E la sua voce la ritroviamo al Teatro Argentina di Roma, dove Massimo Popolizio ci delizia con Cyrano de Bergerac in scena fino all'8 novembre. Buongiorno Massimo, come sta andando? Avete debuttato mercoledì? Abbiamo debuttato mercoledì, buongiorno a tutti. È andata molto bene, è uno spettacolo molto grosso, l'Argentina è un palcoscenico enorme, è un teatro grande. grande, è un teatro impegnativo, ma siamo una compagnia grossa perché siamo 18 persone in scena, una delle poche compagnie quest'anno del teatro pubblico, appunto del teatro pubblico italiano, dove ci sono tante persone, cioè che non sono monologhi o a due o a tre, ecco. Finalmente quindi il teatro con tanti personaggi, quanti siete in scena esattamente? Siamo 18 e ci sono molti ragazzi che fanno doppie e triple parti, sono 46 parti in tutto, quindi sono 46 personaggi. Quindi finalmente uno spettacolo grande, perché generalmente si fanno sempre le commedie ristrette, i monologhi, anche esatto. Tu ne hai fatto qualcuno quest'estate? Sì, ne ho fatti parecchi, poi d'estate leggo, faccio parecchie letture, faccio parecchie cose, e però le faccio perché poi d'inverno la ciccia, come dire, è un'altra, e questa ciccia è, e poi mi sono sempre piaciute le compagnie grosse, le compagnie numerose, viaggiando già da tanto tempo fa con Ronconi, facendo tanti spettacoli con Ronconi, quindi sono abituato alle compagnie numerose. E il naso posticcio c'è? E il naso ci deve essere, perché il naso è nominato da tutti, ma il naso non è il personaggio, cioè il naso è una maschera dietro cui Cirano si nasconde per le sue fragilità. In realtà è un uomo molto fragile che ha una grandissima difficoltà ad avere dei rapporti diretti con le donne, tant'è quella lettera bellissima che voi avete fatto sentire prima, è una delle tante lettere che lui scrive, ma che fa sembrare che abbia scritto Cristiano, cioè l'altro uomo, cioè il ragazzo più giovane, quindi lui ama per interposta persona, questo è bellissimo, è che ama attraverso un altro, è come se ci fosse, insomma, è come se fosse un doppiaggio in cui c'è la faccia di uno ma la voce di un altro, praticamente il sync di un altro. Quindi è facile per un attore, visto che c'è il doppiaggio, voi siete un po' maestri del doppiaggio. Beh, il doppiaggio in questo caso è vero, c'entra, e soprattutto nella scena del balcone, in cui Rossana ascolta, secondo lei, le parole di Cristiano, la voce di Cristiano invece è la voce di Cirano. Sia ben chiaro, tutto questo è una convenzione teatrale, anche perché oggi nessuno penserebbe di poter ascoltare la voce di uno e invece ascoltare la voce di un altro. Insomma, è chiaro che è una convenzione teatrale ed è chiaro che la nostra versione, che è una versione in versi, che è una versione non tanto distante da quella che del film di Depardieu, di cui voi avete fatto sentire un pezzo, e è in versi, quindi per forza ha bisogno anche di una convenzione teatrale. Allora, tu hai interpretato quest'estate Gogol a Roma, giusto? Sì. Al Fontanone Estate, uno spettacolo molto bello. E, tra Gogol e Cyrano, un attore come fa a cambiare sempre identità? Oh, ma questo, cioè, Cyrano comunque, o Cyrano come dici tu, è veramente un personaggio che ti impegna al 100%, quindi fai presto a cambiare, anche perché ci devi mettere tutto. Quindi se Gogol in un certo senso si può fare una cosa anche più vicina a te, anche che poi era in uno spazio più piccolo, era una cosa un pochino più piccolina, ristretta, eccetera, è chiaro che è più facile, insomma il Cyrano è molto più difficile, quindi per cambiare ci devi anche mettere tutta la concentrazione e le forze che hai, e anche una cosa fisica, perché nel Cyrano perdo un chilo a sera, perché tra il duello, il primo atto dura un'ora, cioè il primo tempo dura un'ora e un quarto, io non esco praticamente quasi mai di scena, ed le scene sono a schiaffo, uno appresso all'altro con molto ritmo, cioè moltissimo ritmo, quindi in un palcoscenico, ti ripeto, grande come quello dell'Argentina, senza essere microfonati, con voce naturale eccetera, non è facile. Ma come ha accolto il pubblico questo ritorno al teatro un po' importante, insomma, con tanti personaggi in scena, una vera pièce? Beh, io credo che si sia divertito, perché poi lo spettacolo è anche divertente, ma soprattutto c'è un po', no, l'hanno preso molto bene, anche, sai, quelle cose un po' che si studiano anche a scuola, che fa piacere anche rivedere ogni tanto, per cui c'hai, come dire, questo respiro, però c'è anche questo teatro, non c'è soltanto teatro civile, o non c'è soltanto il racconto di quanto siamo disgraziati, disoccupati, c'è anche un altro teatro che senza nulla togliere, voglio dire, ai racconti di che fanno altri attori o che fanno altre compagnie, senza nulla togliere alla loro bravura e alla loro necessità, ma c'è anche un teatro di repertorio che vive anche dalla bellezza dei versi e dalla bellezza di se stessa, insomma. Dove andrete subito dopo l'Argentina, Massimo? Facciamo subito Reggio Emilia e poi facciamo Bologna, poi facciamo Genova, Udine, Venezia, facciamo tutta l'Italia fino a marzo. È un bel viaggio, con tutta la compagnia, è un viaggio che dura 6 mesi, quindi non è soltanto un viaggio nei versi, ma è anche un viaggio fra le città. Quindi, come abbiamo sentito, Cyrano de Bergerac fino all'8 novembre all'Argentina di Roma, poi in tutta Italia con Massimo Popolizio, che ci è venuto a trovare di nuovo a Radio 24. In bocca al lupo, Massimo. Grazie. Tutto si discute neste mondo, meno una unica cosa che non si discute. Non si discute a democrazia. A democrazia sta aí, como se fosse uma espécie de santa de altar, de quem já não se esperam milagres, mas que está aí como uma referência, a democracia. E não se repara que a democracia em que vivemos é uma democracia sequestrada, condicionada, amputada. La voce è quella del premio Nobel José Saramago in portoghese, che discute di democrazia, una democrazia bloccata, una democrazia sequestrata, avete sentito? Insomma, Nobel per la letteratura nel 1998, lo ricordiamo con il suo più importante romanzo Il Vangelo secondo Gesù Cristo, che è stato un romanzo un po' dirompente in quanto faceva proprio vedere la figura di Gesù dal punto di vista umano, questo Gesù che gli capita di essere il figlio di Dio, ma lui proprio non lo sa. E José Saramago è in Italia, ieri è stato al Circolo Lettori di Torino alle 21 e questa sera invece alle 18:30 sarà presso il Teatro Sociale di Alba per Collisioni, un festival organizzato da Filippo Taricco. Buongiorno Filippo. Buongiorno a tutti. È un'emozione portare Saramago in Italia? È una grandissima emozione, una grandissima opportunità che ci viene data anche grazie alla collaborazione col Circolo dei Lettori. È un tentativo che noi faremo di presentare il premio Nobel Saramago anche ai più giovani, dato che Collisioni nasce come un festival di forte partecipazione di ragazzi dal basso, proprio dai gruppi di lettura, dai circoli di lettori, e quindi nasce con l'intento di avvicinare anche le giovani generazioni alla letteratura. Quindi sarà un tentativo di ripercorrere attraverso delle letture ad alta voce fatte da Fabrizio Pagella, un attore della compagnia di Paolo Rossi, un po' le pagine di Saramago dialogando con lui. Sarà Antonio Scurati a dialogare con José Saramago e l'incontro si svolgerà come un incontro informale aperto in cui anche il pubblico potrà prendere la parola e intervenire, come nell'ottica di Collisioni. Quali letture avete scelto? Beh, citavamo prima Il Vangelo, che è un'opera imprescindibile, ma io accosterei anche un altro capolavoro di Saramago, che è Cecità, da cui faremo una lettura piuttosto lunga, ma cercheremo di spaziare, quindi ovviamente Quaderno, che è il libro che presenta, edito da Bollati Boringhieri, che Saramago presenta in Italia in questi incontri, ma andando anche più indietro per non dimenticare, no? Perché Saramago rappresenta un pezzo di storia dell'Europa, una memoria che deve essere interrogata, quindi partiremo da Memoriale di un convento, lavoreremo anche su altre opere, cercheremo di spaziare nelle diverse scritture di questo autore così poliedrico, che ha affrontato anche stili molto diversi nella sua carriera. È un autore che a me emoziona sempre perché è capace in Cecità di costruire un romanzo che potrebbe quasi essere una fiction americana, non avesse quello stile e quell'intensità, ma è una fiction catastrofica, se vogliamo, tant'è che ne hanno fatto un film e quindi può essere letto anche dai più giovani, cioè è emozionante che uno scrittore, quando l'ha scritto non più giovane, abbia scritto un libro del genere. E invece un libro come Memoriale di un convento, che invece è un libro assolutamente colto, anche linguisticamente molto complesso, e quindi che questa cosa della capacità di affrontare anche generi diversi, di parlare con voci diverse, è la grande dote di questo scrittore geniale che è Saramago. Ricordiamo, no? C'era un vecchio con una benda nera su un occhio, un ragazzino che sembrava strabico, una giovane dagli occhiali scuri, altre due persone senza alcun segno visibile, ma nessun cieco. I ciechi non vanno dall'oculista. Questi sono i paradossi di Saramago. I paradossi di Saramago, a cui ci ha abituato, no? Anche nella Zattera, in tutti i libri, no? Vediamo questo tentativo di visitare, no, la realtà attraverso un altrove, di interpretarla. E quindi quello che noi ci aspettiamo, che il motivo per cui siamo emozionati per questo incontro è che lui ci aiuti anche a leggere la realtà, anche la realtà italiana, come ha fatto in Quaderno, occupandosi anche del nostro paese, quindi riuscendo a leggere proprio il presente attraverso quel bagaglio che è la sua memoria storica, letteraria. Come ha detto Harold Bloom, lui rimane forse l'ultimo grande scrittore della tradizione vivente, no? Ricordiamo poi che Saramago, anche nelle intermittenze della morte, dove praticamente la morte sciopera, sciopera, era molto carino, esatto. Perché praticamente però vai sciopera, e quindi c'è tutto quanto un paradosso, no? Perché lui usa molto il paradosso. Assolutamente, ci fa capire che anche la morte ha una sua importanza, benché vituperata. Sì, perché poi alla fine, siccome non si muore più, i parenti erano costretti a portare i moribondi fuori dallo Stato in modo tale che potessero morire. È molto divertente quel modo di rappresentare. Ma anche la sua capacità visionaria, che tocca livelli altissimi, ed è il motivo per cui noi cominciamo a leggere i libri di Saramago, e in poche pagine, superato lo scoglio di quella grande lingua e di quella grande complessità che a volte allontana certi lettori, perché bisogna superare, io credo, ogni grande scrittore, no? come lui, anche Cormac McCarthy, anche Philip Roth, sono autori complessi, ma è una complessità che assolutamente paga, ed è la sua grandezza anche. Ricordiamo che non bisogna assolutamente perdere l'appuntamento di questa sera presso il Teatro Sociale di Alba alle 18:30, un incontro con José Saramago, premio Nobel per la letteratura, e con Filippo Taricco, organizzatore del Festival Collisioni. Cartellone. When you fall on your head, do you land on your feet? Are you tense when you sense there's a storm in the air? Can you find your way blind when you're lost in the street? Do you know how to go to the Heaviside Layer? 'Cause Jellicles can, and Jellicles do, Jellicles. I gatti ci accompagnano oggi, sì, perché è in scena Cats, i Jellicoe Cats di Andrew Lloyd Webber. Ma che dicevano questi gatti che sono andati in scena in tutto il mondo e noi non abbiamo mai capito nulla, perché siamo in Italia e quindi non tutti sanno l'inglese, oppure non tutti riescono a percepire proprio tutte le parole? Beh, lo scopriremo andando questa sera al Teatro dell'Aquila di Fermo, perché Saverio Marconi ha tradotto il famoso musical di Andrew Lloyd Webber. Buongiorno Saverio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, come sta andando le prove? So che c'è molta molta tensione in teatro. Sì, siamo molto in fibrillazione per questa anteprima qui a Fermo, dopo 2 mesi di prove, quindi c'è molta, molta agitazione, però tutto bene. Poi è importante, è uno spettacolo così importante, è stato tradotto in tantissime lingue, mancava proprio l'italiano, e quindi eccoci qua a colmare questa lacuna. E la traduzione è di Michele Renzullo e Franco Travaglio. Esattamente, sì. E che cosa dicevano i Cats, i gatti, all'inizio? Beh, i Jellicles sono una tribù di gatti particolari, e domandano proprio al pubblico, gli dicono per esempio: tu nasci cieco anche tu? Perché i gattini nascono con gli occhi chiusi. Vedi al buio anche tu, sì o no? Perché i gatti riescono a vedere al buio, noi no. Quindi se c'hai tutte queste doti, vuol dire che sei un gatto Jellicle. E quindi gli italiani finalmente capiscono, anche se poi magari molto spesso si può andare a vedere un musical con i sopratitoli, no? C'è anche questa nuova possibilità. Certo. Siamo un po' distratti, perché si legge o si guarda. Generalmente però quando si traducono le canzoni il testo poi non coincide esattamente con la musica, cioè ci sono varie scuole che dicono no, non bisogna assolutamente tradurre, invece... Dai, guardi, è una scuola, dico subito, è una scuola sbagliata proprio, quella è una scuola che sbaglia, cioè nel senso, se si vuole vedere uno spettacolo in lingua originale basta andare nel paese dove lo fanno e uno lo vede, quindi o compro un disco in lingua originale, ma uno spettacolo dove sono obbligato a leggere i soprattitoli e i sottotitoli è uno spettacolo per un'elite particolare, invece come è successo per Cats e come tantissimi altri musical, si traducono. Cats è stato tradotto in spagnolo, tedesco, in giapponese, in coreano, in bulgaro, in qualsiasi lingua, mancava proprio l'italiano. Quindi io penso proprio che l'unica strada sia tradurli, e l'unica strada per vederli bene nella lingua originale è andare nel posto. Anche perché senza traduzione, senza l'obbligo di stare lì a cervellarsi cosa stanno dicendo questi gatti, magari ci si riesce pure a godere lo spettacolo, a vedere i balletti che sono fondamentali. Noi certo. Ricordiamo che questo allestimento che tu hai fatto è un'orchestra dal vivo con 16 elementi. Certo. Però c'è un momento, e lì io poi vorrei venire tanto al Teatro dell'Aquila di Fermo, perché vorrei sentire come avete tradotto questa canzone. La memoria di una gatta ormai anziana, la memoria dei giorni verdi, dei giorni della gioventù, il momento un po' clou di questo musical da tanti tanti anni, perché ricordiamo un musical del 1981. Ah, sì, no, guarda, la parola giusta sarebbe ricordo, quindi è un ricordo. Questa è una gatta molto particolare che non può, non è una gatta vecchia, che sono della vecchiaia e quindi lei sogna la gioventù, no. È una gatta che è completamente rovinata, forse ha preso la tigna, forse ha preso qualche, ha fatto una vita troppo sfrenata e quindi è una donna ormai finita. E quindi con questi ricordi, lei ricorda quando invece era bella, tutti gli stavano dietro. E questa gatta c'ha una grossa forza, perché dice basta vivere di ricordi. A un certo punto dice il sole sorgerà e mi vedrà per quello che sono. E quindi accettatemi per quello che, mi accetto per quello che sono. E non sono più nascosta da sola. Cerco di farmi accettare dagli altri. E questo, naturalmente, questa sua decisione è una decisione importante che la porterà a rinascere. Allora, ricordiamo, Saverio, Cats si inaugura questa sera e domenica 11 ottobre al Teatro dell'Aquila di Fermo con un attesissimo debutto, uno spettacolo proposto in italiano con la tua regia, la regia di Saverio Marconi. Quello che ti volevo chiedere, dopo Fermo dove andrete? Dopo Fermo andiamo a Udine, poi andiamo a Alessandria, andiamo a Brescia e poi c'è il debutto ufficiale a Sestina di Roma il 28 ottobre. Mm-hmm. E volevo ricordare che le coreografie sono di Daniel Ezralov, che ha portato una grande spinta allo spettacolo. Perché sono coreografie inedite, mentre i costumi sono di Covery, delle Maison Covery, insomma. Esattamente. L'avete un po' italianizzato questo musical, anche con i costumi. Questo è proprio un grande orgoglio, perché in tutto il mondo obbligavano a fare la versione identica e invece a noi hanno concesso per la prima volta di dare delle completa libertà. Allora, ricordiamo che si inaugura questa sera, sabato 10 e domenica 11 a Fermo, nelle Marche, al Teatro dell'Aquila, il debutto di Cats e poi il 28, dopo vari giri, al Sistina di Roma, il debutto ufficiale. Grazie Saverio, in bocca al lupo. Grazie a tutti. An effervescing elephant with tiny eyes and great big trunk, one whispered to the tiny ear, the ear of one inferior, that by next June he'd die. Oh yeah, because the tiger would roam. The little one said, oh my goodness, I must stay at home. And every time I hear a growl, I know the tiger's on the prowl, and I'll be really safe, you know. The elephant, he told me so. Everyone was nervy, oh yeah. And a message was spread to zebra mongoose and the dirty hippopotamus, who wallowed in in the mud and chewed his La voce che state sentendo è quella di Syd Barrett, storico fondatore dei Pink Floyd, con Elephant, un modo di riscoprire questo grandissimo personaggio della storia del rock è proprio quello di andare questa sera al Teatro Colosseo di Torino, perché Emiliano Galigani ha scritto un musical sui Pink Floyd, ma proprio attorno alla figura di Syd Barrett. Buongiorno Emiliano. Buongiorno a tutti. Insomma, un musical particolare perché è dedicato alla band più famosa del rock psichedelico, ma soprattutto c'è musica dal vivo. Insomma, ci vuoi descrivere che cosa succede sul palco, visto che avete già fatto la prima ieri e poi adesso replicate oggi? Ma guarda, sul palco sostanzialmente quello che succede è questo: c'è la drammatizzazione della storia di un artista grandissimo e della sua libertà creativa, della sua ascesa al successo e del suo cadere proprio a causa del successo in una serie di contraddizioni rispetto alla libertà creativa, ovvero l'essere al successo lo porta a dover reiterare ogni sera lo stesso spettacolo e quindi lo porta a essere schiavo di una macchina che lo fagocita. Una macchina che poi lo fagocitò del tutto, perché lui impazzì, Syd Barrett, no? E praticamente sul palco si alternano 12 attori e cantanti, o sbaglio? Esatto, sono 12 attori, cantanti e ballerini che mettono in scena in toto questa storia. In realtà quello che si vede è un musical un po' particolare, perché non è il classico musical fatto di balletti e cantati e basta, ma è uno spettacolo un po' multimediale, cioè ci sono molte proiezioni video, quindi la storia è ambientata negli anni, alla fine degli anni 60 e si sviluppa per 4-5 anni. Per 4-5 anni fino al suo declino. Anche perché la genesi di questo spettacolo nasce proprio dall'esigenza di creare una storia nuova da 30 anni di canzoni di Pink Floyd. Tu hai scritto e dirigi lo spettacolo, eri un fan sfegatato dei Pink Floyd all'epoca? Ti dico la verità, no, ero un conoscitore dei Pink Floyd, mi chiamarono perché mi chiesero di mettere in scena a The Wall. E noi per storia, come compagnia, abbiamo sempre realizzato cose inedite e quindi ci venne in mente di lavorare un po' sui testi di quelli che erano appunto 30 anni di storia musicale dei Pink Floyd. Allora, visto che l'hai nominato The Wall, che poi è stato scritto molto dopo che Syd Barrett non era più nel gruppo, e visto che l'hai nominato, io farei ascoltare un pochettino questo The Wall, questo muro immaginario che ci costringe tutti al nostro isolamento. Il muro delle nostre costrizioni, il muro che poi imprigiona Syd Barrett nella sua pazzia, Emiliano. Esatto, è sostanzialmente questa, è proprio questa la storia, ovvero sia il reiterarsi di una serie di meccaniche che poi sono quelle che affliggono anche gli artisti del giorno d'oggi, ovvero quello che ti porta al successo, cioè la tua libertà creativa, diviene all'improvviso una gabbia all'esterno del quale non si può più vivere, e quindi questo porta alla pazzia, nel caso di Syd Barrett all'uso di droghe e alla conseguente internamente. Allora ricordiamo questa sera Welcome to the Machine, un musical sui Pink Floyd, ma soprattutto sulla figura psichedelica, è il caso di dirlo, di Syd Barrett al Teatro Colosseo di Torino. Grazie Emiliano Galigani, e noi vogliamo salutare anche Syd Barrett con la famosa canzone con cui lo salutarono i Pink Floyd. Remember when you were young, you shone like the sun. Cartellone. E adesso ci occupiamo di mostre. Ci occupiamo di mostre con la nostra esperta Adriana Fracchia, che per Radio 24 segue un po' l'arte. Questa settimana ha anche seguito un evento un po' particolare, il restauro del Caravaggio a Roma. Adriana, di che cosa si tratta? Sì, buongiorno Betta, buongiorno agli ascoltatori. La Camera dei Deputati ospita in questi giorni i lavori di restauro del dipinto di Caravaggio, l'Adorazione dei Pastori, che proviene dal Museo Regionale di Messina. Il restauro, curato da Valeria Merlini e Daniela Storti e sotto la direzione dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, è aperto al pubblico in alcune giornate della settimana e lo sarà fino alla fine di gennaio nel 2010. Poi l'opera verrà esposta nella grande mostra che si terrà in febbraio alle Scuderie del Quirinale per celebrare i 400 anni della morte di Caravaggio. E abbiamo chiesto ad una delle due restauratrici, Valeria Merlini, di raccontarci questa esperienza. Sentiamola. Questa pratica è negli ultimi anni più comune, anche se a mio parere non troppo comune. Abbiamo comunque iniziato noi nel 1999 con il restauro della Madonna dei Pellegrini di Caravaggio, che è stato il primo esempio, forse uno dei primi esempi di restauro aperto al pubblico. Spero che questa di quest'anno sia un'esperienza più completa. L'opera è visibile dalle vetrate del punto camera su via del Parlamento. Cerchiamo di rispondere durante i giorni di apertura al pubblico, che sono il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 17. Ricordo che ci si deve prenotare attraverso il sito Fastweb, che è il nostro sponsor, e cercheremo appunto di rispondere a tutte le domande del pubblico, di coloro che vorranno avere notizie sui vari step del restauro. L'opera è arrivata dal Museo Regionale di Messina, e in che condizioni? L'opera è stata restaurata l'ultima volta dall'Istituto Centrale del Restauro nel 1950. Il supporto dell'opera è in discreto stato di conservazione. L'immagine del dipinto invece non è leggibile in maniera completa. Delle ossidazioni, cioè delle opalescenze che sono derivate dall'alterazione delle vernici, rendono il quadro molto poco leggibile. Noi faremo un lento lavoro di rimozione di queste vernici alterate, di tutte queste sostanze strane alla pellicola pittorica originale, riportando il quadro in una condizione più vicina a quella originale. Adriana, quindi abbiamo sentito, insomma, questo restauro di Caravaggio molto molto interessante, ma io so pure che tu ieri sei andata a una mostra mercato a Milano. Che cosa hai scoperto? Sì, è l'altro evento di cui vi voglio parlare oggi, riguarda proprio questa innovativa mostra mercato, si chiama Step 09, che si tiene a Milano per tutto questo weekend agli East End Studios di Via Mecenate, dove è possibile vedere e volendo comprare delle opere d'arte di recente realizzazione il cui prezzo non superi 25.000 euro. Tutto questo ascoltando anche musica o godendosi una performance di danza contemporanea. Una fiera quindi con caratteristiche insolite, la sua prima edizione davvero unica finora nel suo genere, una mostra mercato che potrebbe diventare itinerante. Ma come è nata l'idea di Step 09 ce lo ha spiegato Francesco Gattuso, che insieme ad Ilaria Centola ha ideato questa iniziativa. Sentiamo. Sembra quasi una necessità, visto l'adesione che abbiamo avuto e soprattutto la spontaneità e l'entusiasmo di alcuni galleristi che hanno aderito senza pensarci due volte, quindi qualche cosa nell'aria c'era, perché andare a visitare fiere d'arte dove ci sono 180, 190 stand, dove magari uno entra la mattina e la sera però non capisce, non si ricorda cosa ha visto. Abbiamo pensato, perché non andare a fare una fiera con divertimento? L'unica cosa era chiaramente trovare le persone giuste e disponibili. Questo l'abbiamo fatto, siamo 23 galleristi, giusto per andare in controtendenza ai numeri, e però di fianco a noi nel padiglione stanno già facendo le prove, ci saranno concerti, esibizioni di danza contemporanea addirittura prodotte da una galleria, la Bianca Maria Rizzi di Milano, che fa vedere uno spettacolo che è stato già presentato alla Biennale di Venezia di Francesco Ventriglia. Molte gallerie e poi ci hanno detto, però questa situazione ci piace, vogliamo assolutamente produrre qualcosa. E così arriva Stefano Arienti con Franco Busatta, che presentano una performance a forma di karaoke, poi stand addirittura fatti apposta come se fossero un'installazione. Questa è un po' l'effervescenza che stiamo costruendo in questi giorni. E per quello ci piace definirci fiera, evento, formato, format, perché comunque intendiamo cominciare a girare un po' altri posti, sia in Italia dove ci hanno già proposto delle cose che potrebbe essere interessante, ma soprattutto vogliamo consolidarci con una o due uscite per poi presentarci anche come evento alternativo alle fiere europee, perché no? Nel senso che un gruppo di gallerie italiane molto facilmente riconoscibile, che sono disponibili a fare questo tipo di evento, verrebbero con noi un po' in Europa dietro le fiere, quelle un po' più importanti o quelle più di tendenza. Questa è un po' l'idea di base. Ci diamo tempo due o tre edizioni e poi si parte. Adriana, insomma, un modo di vivere anche la città, anche Milano. Allora ci sentiamo prossimamente, ci segnalerai le tue mostre. Grazie agli ascoltatori, grazie a te e buon divertimento. Buon divertimento anche a te. Quello che sentite è il rumore del vinile, sì, il magnifico rumore del vinile, i dischi, 45 giri, 78 giri, 33 giri, i long playing. E noi allora andiamo a Napoli, mostra mercato del disco, il vinile fa girare la musica alla Pala Partenope. Buongiorno a Nicola Iupariello, organizzatore dell'evento. Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Che cosa si trova al Pala Partenope a Napoli? Tutti i dischi possibili e immaginabili? Sì, infatti, al Pala Partenope di Napoli, e in effetti è all'interno del Pala Partenope, c'è una struttura che si chiama Casa della Musica Federico I, e facciamo questa mostra mercato del disco, che in pratica è un'occasione per gli appassionati di musica e non solamente per i collezionisti, quindi per venire a trovare un sacco di cose in effetti particolari. Che magari non si conosceva neanche dell'esistenza, nonostante uno possa essere appassionato. Molto spesso ci sono tante novità, tante chicche. Insomma, tante novità e tante chicche, dal collezionismo all'esposizione alla vendita di 33 giri. Ma quanto costa oggi un 33 giri? Ma un 33 giri può costare da un 50 centesimi a 1000 euro, dipende dal 33 giri e dipende dal, più che dal gruppo, dipende dal tipo di stampa. Ma sono tante, così tante le caratteristiche che debbono essere prese in considerazione quando si fa una valutazione di un pezzo da collezione, che non è questo il caso di riassumerle. Nicola, un attimo, resta con noi, così ci dici quanto pagheresti tu per un 45 giri di questa portata. This happened once before, I came to your door, no reply. They said it wasn't you, but I saw you peep through your window. I saw the light, I saw the light. I know that you saw me as I looked up see your face. I tried to telephone, they said you were not home. That's a lie, 'cause I know where you've been. I saw you walking your door. I nearly died. Sono quasi morto, cantavano i Beatles, perché c'era No Reply. Beatles, ci sono tantissimi amici che collezionano i Beatles, i 45 giri dei Beatles, e in effetti sono uno dei gruppi più collezionati, e sicuramente in mostra ci saranno tantissimi 45 giri dei Beatles, sia per chi in effetti li cerca, ma anche in effetti per coloro che li venderanno, insomma ci saranno parecchi appassionati che le richiederanno. Quindi quanto si paga per un 45 in vinile dei Beatles? Ma anche in questo caso non esistono in effetti delle quotazioni, perché dipende dal tipo di stampa, dalla qualità della stampa, dipende dallo stato in cui è stato emesso il 45 giri, quindi diciamo che molto spesso sono le rarità quelle che costano, e possono costare diverse centinaia di euro, insomma, come dicevo prima, fino ad arrivare a quotazioni veramente stratosferiche, ma normalmente, altrimenti comunque i prezzi possono essere vari, possono essere anche per tutte le tasche, diciamo, insomma, non è che necessariamente debbano costare così tanto. Ricordiamo allora, Nicola, che quindi bisogna andare a questa mostra mercato del disco, il vinile fa girare la musica, al Pala Partenope di Napoli. A che ora si inizia? Da che ora a che ora? Allora, la mostra ci sarà tutta la giornata, dalla mattina alle 10:30 fino alle 20 la sera, e ad ingresso gratuito. Perfetto, quindi da domani, giornata dell'11 ottobre, dedicata al vinile, e noi chiaramente non possiamo fare a meno di farvi sentire un'altra band che sul vinile ha costruito la sua fortuna. Per oggi è tutto, io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione, vi ricordo che ci potete scrivere a cartellone@radio24.it. Un buon sabato, un buon weekend da Elisabetta Fiorito.